live next door. And the band begins to play. Allora, abbiamo risolto i piccoli problemi di incapacità nostra, no? Non li chiamiamo problemi tecnici, sono proprio io che sono un disastro. Buongiorno al nostro interlocutore, buongiorno Daniele. Ciao, buongiorno. Allora, Daniele non ha bisogno di presentazioni, ma noi le facciamo, è da sempre un compagno di questa radio, vicino a questa, al nostro modo di fare le cose, ma soprattutto un attivista, oramai forse è brutto il termine, è un compagno del territorio, in particolar modo quel territorio vive, lavora e fa politica in tutta la città, ma in particolar modo nel luogo in cui abita, al Pigneto. Dico giusto? Sì. Allora, noi stamattina abbiamo fatto una serie di riflessioni anche su altri argomenti, però se hai sentito leggermente in sottofondo abbiamo messo Yellow Submarine dei Beatles, perché in effetti questa storia del sottomarino ha guidato un po' le cronache di questi giorni, questo sfottò al sindaco Marino sulla questione delle piogge, dei crolli, è stata una cosa benevola tutto sommato, perché diciamo il ragionamento che poi ci interessava di più è che intorno anche a questa vicenda si è riattivato un dibattito sul degrado della città, sui problemi della città. Noi ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, abbiamo parlato in particolar modo di quello che avviene in due quartieri di Roma, San Lorenzo e il Pigneto, e volevamo con te fare un po' il punto della situazione. Chiaramente non parliamo di piogge, non parliamo di fogne ostruite, parliamo di una situazione più complessa, socialmente più complessa, l'abbiamo fatto in passato, abbiamo tentato di riflettere un po'. La prima domanda è, queste ultime settimane, almeno io mi è capitato di ripassare al Pigneto e ho trovato una forte presenza della polizia, ma anche una forte presenza, almeno questo è avvenuto qualche giorno fa, una forte presenza di situazioni di tensione nel quartiere. Tu me le confermi? Sì, purtroppo diciamo questa presenza della polizia è semplicemente fumo negli occhi, nel senso che spessissimo diciamo che quando c'è l'incazzatura degli abitanti legata a degrado, legata ad assoluta incapacità di vivere proprio la propria abitazione, il proprio quartiere, allora ci sono queste persone che esasperate telefonano, dopo incontri innumerevoli fatti sia col sindaco sia con un po' tutta quanta diciamo la parte che si sta insediando adesso, che si è insediata da pochi mesi e che in pratica non riesce assolutamente a controllare la situazione, ma non è che non riesce a controllare perché sai è inesperta e cosa, no, perché c'è tutto un apparato di funzionamento che tutto fa tranne che risolvere i problemi, ma fa un apparato che è semplicemente, secondo noi, di rappresentanza, di mossa, di scena, di capito? Fa muina, insomma. Cioè tu stai dicendo che il governo della città, inteso in senso più largo, che va dalla politica ai vigili urbani, alle forze dell'ordine, a chi ha ruoli amministrativi, all'ispettore della ASL, cioè tutto quello che noi chiamiamo governo della città, che non sono i cittadini, sono coloro che hanno delle funzioni pubbliche che dovrebbero in qualche maniera costituire la cornice di regole istituzionale per la convivenza civile, non riesce a governare le situazioni a cui si trova di fronte, per esempio al Pigneto. Io dico per esempio perché secondo me la situazione è molto più diffusa, per esempio al Pigneto, ho capito bene? Hai capito benissimo, diciamo da una parte alcuni non riescono, quelli dotati di vera buona volontà e di spirito di cambiamento, ma gli apparati, cioè il funzionamento di tutta la macchina comunale è assolutamente zero, cioè sono apparati che servono soltanto a riprodurre i propri interessi di potere, proprie situazioni di controllo per fini privatistici del territorio, quindi cioè Marino pensava che bastava un po' di, che ne so, di qualche chiacchiera, qualche espressione di buona volontà e tutto si trasformava e tutto diciamo prendeva un'altra linea, ma là ci stanno situazioni talmente incallite, talmente diciamo così corrotte, talmente legate a operazioni di sottogoverno, che in pratica queste cose non le scaffiscono per niente. Cioè, diciamo, c'è stato un grosso dibattito nei cittadini del Pigneto: polizia sì, polizia no, repressione sì, repressione no. Cioè, a cosa serve la repressione per la vivibilità di un quartiere? Lo militarizzi il quartiere, ma non è che cambia la vivibilità, anzi, diciamo che spesso poi la presenza dei militari, come la storia insegna, è più presenza di angherie o di soprusi che di giustizia, insomma. Comunque l'esasperazione è stata tale, dice, qua non possiamo cedere il quartiere in mano a bande incontrollate, e alla fine, insomma, si è optato, anche i compagni più diciamo così più restii hanno optato, più allergici per... va? Eh? Più allergici. Allergici hanno optato per una soluzione anche, diciamo, tra virgolette, un po' repressiva, anche un po', ma l'operazione è semplicemente ridicola, nel senso che laddove c'è qualche cittadino che segnala, guarda, che ci sta una situazione di spaccio legato a quantità industriali di monnezza, di porcherie che portano o i casalesi, oppure, insomma, vengono fuori da bande ben grosse, ben organizzate, ed avvengono in giorni precisi, con macchinoni, con personaggi assolutamente, diciamo, squallidi, oppure addirittura squallidi però ben vestiti e ben curati. Cioè, stiamo parlando di criminalità organizzata, sostanzialmente. Stiamo parlando di criminalità organizzata, stiamo parlando di complicità all'interno degli stessi apparati statali, perché la cosa che hanno notato parecchi abitanti è che chi tiene le file anche di questo spaccio spesso sono personaggi che stanno nel quartiere, che prima erano addirittura o direttamente appartenenti alle forze dell'ordine, o apparati, o diciamo con imparentate con cose del suo genere, oppure che si vogliono imparentare adesso, quindi con che gestiscono un po' il territorio. Quindi uno avverte, c'è stato un episodio che ha un po' fatto venire l'allergia a tutti quanti, nel senso che uno dice, guarda, sta succedendo che là sono in 20, stanno scambiando grosse quantità, sembrano pacchi grossi, telefonatemi, arriva una telefonata, prima che arriva la polizia tutti spariscono, cioè gli arriva uno di questi che sta facendo il suo lavoro, una telefonata, e questi spariscono, e arriva la polizia, non c'è nessuno. Quindi controllo del territorio, ma controllo delle relazioni, anche capacità, diciamo, di condizionare. A nostro parere non c'è nessuna volontà vera, seria, di diciamo anche dal punto di vista repressivo, di cambiare la situazione, anche se appunto molti di noi sono diciamo molto scettici sul fatto che tu con la, che se tu non elimini la domanda, cioè, vabbè, ma questo credo che sia un discorso che a noi è chiaro che nel momento, perché questa è la seconda fase del breve colloquio che volevamo fare con te, perché questo è lo Stato, e questo secondo me è quello che è lo Stato. Poi potranno esserci anche punti di vista diversi, persone che non concordano. Io ricordo sempre a tutti che lo 06 49 17 50 è aperto, e quindi chiunque voglia intervenire, che magari non è d'accordo, a punti di vista diversi, noi siamo aperti a qualunque riflessione. Però, detto questo, quello che si vede, e io quel poco che ho visto, purtroppo mi tocca a malincuore, non a te, ma la situazione è darti ragione. La situazione? Mi tocca darti ragione, cioè la situazione che si vede quotidianamente in quel quartiere c'ha queste caratteristiche. Però, detto questo, isolato, diciamo, questa parte del problema, poi il Pigneto è come San Lorenzo, per certi versi, ne abbiamo parlato, per San Lorenzo abbiamo diverse volte, cioè, ha queste aree, diciamo, di grande vivacità commerciale, di giovani, di meno giovani, come luogo d'appuntamenti, come luogo di, c'è quest'area pedonale. In tutto questo, diciamo, anche l'utenza ha le sue responsabilità, o quantomeno anche l'utenza è un attore di questa vicenda. Tu, questa utenza, questo modo di stare, di vivere questi luoghi, come la vedi? Beh, io diciamo che abbiamo fatto di tutto noi perché l'utenza potesse trovare È un termine orribile, però la chiamo... appunto, diciamo, oramai stiamo tutti sul commerciale, qua utenti, consumatori, quindi vabbè, diciamo che noi abbiamo fatto di tutto perché gli abitanti, i cittadini, potessero avere un posto dove riunirsi, dove liberarlo dal traffico ed avere comunque un posto di socialità, i ragazzini, cose di discussione, cioè questo è stato da sempre l'obiettivo. E noi praticamente considera che come comitato del quartiere del Pigneto siamo presenti sul territorio, prima c'era il collettivo del Pigneto, quindi cioè, da 10, 20, 30 anni, capito? Me lo ricordo bene, comitato di lotta del Pigneto. Appunto, ci sono state insomma varie situazioni, varie esperienze e quindi poi ci siamo passati il testimone, diciamo, fra queste varie realtà. E quindi da sempre si è tentato di fare in questi quartieri delle zone di vivibilità al massimo, diciamo, rispondenti alle esigenze dei cittadini e un pochissimo rispondenti alle esigenze commerciali, perché noi riteniamo che il commercio, cioè, diciamo, uno scambio sano va pure bene, ma il commercio inteso come arraffamento, come depredare, fa salire i prezzi alle stelle, l'abbiamo sempre rifiutato, perché abbiamo sempre ritenuto che fosse invece l'elemento che snaturava assolutamente i luoghi e non rispettava la storia e la vita. Però sai Daniele, come si dice, ognuno fa la sua parte. A me non mi stupisce che gli interessi commerciali, imprenditoriali abbiano tentato di spremere come possibile un luogo del genere. Mi inquieta di più che a questa offerta ci sia stata una risposta che sembra avere le caratteristiche, diciamo, di accettazione di queste modalità di relazione, questo consumo vistoso. Diciamo vistoso, che i giovani, i ragazzi di cui tu appunto parlavi prima, che frequentano, che si sono impossessati di questi posti liberati, di questi spazi liberati, o perché non sanno, non conoscono bene la storia, o perché oramai il tipo di, diciamo, abitudini, il tipo di educazione che hanno è quella del comprare, del consumare, del bruciare, cioè non del godere, non dell'assaporare, del conquistarselo, ma dell'avere cercato di puntare fin qua, cioè io sono proprio spaesato rispetto a certi tipi di comportamenti. Tante volte noi abbiamo discusso anche con sti ragazzi là sui, dico, scusa, ma te che cazzo ti costa, mo hai bevuto, hai fatto, che cazzo ti costa prendere la bottiglia, la cosa, e portarla in un contenitore? Perché devi lasciare tutta quanta la roba lì per terra? Qual è il motivo? Poi che cazzo la devi pulirla? Ma poi la gente, ma secondo te ti guarda bene, ma tu perché? Noi ti abbiamo creato questa, allora, cosa, questo posto in cui tu questa, che questo cazzo è chiaro, ti costa? E questo è minimamente chiaro, per provvedere a te stesso. Però secondo te, questa è una domanda che, perché c'è stata già una discussione qui in radio, no? Stavamo chiacchierando di questi temi su San Lorenzo, è intervenuto Giorgio, che è un compagno di questa radio, ma che c'ha, come dire, è un tuo coetaneo in una certa maniera, adesso non so l'età esatta, e anche lui proprio ha usato quasi le stesse tue parole. Adesso non so se vi siete messi d'accordo. No, non so se vi siete messi d'accordo, oppure perché c'è una sensibilità che si vedono le cose alla stessa maniera. Parlava di Piazza dell'Immacolata, no? E io mi sono trovato a chiedergli però un'altra cosa. Questa è una cosa che si vede e va detta, perché le cose che si vedono vanno dette, non è che bisogna nascondersi. Però a me sembra che anche questi giovani, questi tra virgolette utenti, queste persone anche diverse, perché bisogna anche diversificare, no? Non, se no si dice, si fa come fa la politica, no? Tutto un blocco, no? Ci sono componenti diverse, soggetti, certo, diversi, certo. Questa loro modalità che io ho chiamato predatoria dei luoghi pubblici, esatto, degli spazi pubblici, non è soltanto un fatto di costume, è quasi una rabbia, è quasi una... specialmente negli ultimi tempi, è quasi una risposta a questa ricchezza esposta, a questo va tutto bene quando magari nella loro vita non va tutto bene. Sì, ma si incazzassero e si muovessero per conquistare altre... Forse c'è un problema, nel senso che forse questa domanda, se è così, magari io mi sbaglio, magari sono soltanto degli opportunisti, vogliono consumare, vogliono... Però ma magari diciamo se c'è una componente... Ma la mia generazione, la parte nostra di compagne, porta una grave responsabilità. Io vabbè, su questo sono stato molto critico anche rispetto, appunto, tu sai, alla gestione di Via De Vosce, alla gestione del 32, alla gestione delle sedi. Cioè, il fatto, secondo me, di condividere un po' questa... questa essere ribelli, con questo vendere lo sballo eccetera, per me è incompatibile. Io, tu sai, gli scazzi che ho avuto con i compagni, non scazzi pubblici, ma tanto oramai purtroppo queste cose se ne può parlare anche così pubblicamente, però diciamo sul già la gestione dello sballo, del funzionamento con l'alternativa della società, del cambiamento. Io ho sempre ritenuto un elemento assolutamente negativo questo tipo di, ma non perché appunto dobbiamo essere tutti bacchettoni o cose, ognuno si può fare le canne, può pigliare le sostanze che cazzo gli pare e piace, ma esaltare questo tipo di impostazione o comunque farla convivere come una cosa quasi indolore con il discorso della distruzione della società, di sfruttamento della società, di disuguaglianza, a me mi sta proprio e infatti è strano, io no? Non l'ho mai potuto sopportare. È strano perché noi fino a un certo punto, fino a un pezzo della nostra storia, specialmente per quanto riguarda l'eroina, poi è curioso questo fatto perché poi diciamo chiamiamoli col loro nome, negli ultimi tempi c'è questo ritorno. Luca, scusa, non possiamo dire l'eroina ammazza, la cocaina fa bene. No, assolutamente, capito? Assolutamente. Però assolutamente. Io mi sono trovato di fronte a situazioni anche nell'ambito della sinistra, di compagni che andavano a ammazzare, andavano a fare la guerra agli spacciatori di eroina e però si compravano la cocaina dicendo che gli esaltava. Ma che cazzo, ma che te vuoi saltare? Ma saltati con le lotte, saltati con le soddisfazioni che fai col territorio liberati, con la gente che ti dà affetto, con cui ti riesci a compenetrare, con cui riesci a cambiare la realtà. Che cazzo ti esalti con una polvere di merda, col vino, quello che cazzo sia, ubriacante? Che cazzo ti cambia? Che cazzo ti esalta? Su questo credo che non c'è molto da aggiungere, però quello che mi chiedevo io, no? Alcuni passi avanti rispetto a questa riflessione. Io penso, non so, te lo ricordi lo slogan? No, tu non te lo puoi ricordare perché eri ospite delle Patrie Galere. Però noi abbiamo cominciato, perché poi ogni generazione ha le sue responsabilità, abbiamo cominciato a occupare i centri sociali nella prima metà degli anni stato, 80. Diciamo ripiego dopo le sedi, vabbè. Sì, però abbiamo dopo i quartieri liberati abbiamo vabbè, però abbiamo cominciato a occupare i centri sociali. Sì, col sisto qui, con la maggiolina prima, con uno slogan che era comunque riciclato da un periodo precedente, che era uscire dal ghetto, rompere la gabbia, no? Questi quartieri di periferia in cui venivano cotizzati, diciamo, le figure più marginali, i giovani più meno abbienti, li chiamavamo proletari allora, ma adesso non si usa più. Con l'idea di costituire dei luoghi in cui di nuovo lo stare insieme, il pensare la propria vita per il cambiamento fosse potenzialmente un. Eravamo negli anni, diciamo, negli anni 80, in cui l'idea di privato stava a zero qualsiasi iniziativa politica, esattamente. Il tempo allora così. Però io non sono sicuro che delle responsabilità nel messaggio, nella capacità di costruire, però abbiamo costruito anche grandi episodi di riappropriazione dentro la città, di spazi, di lotte, di linguaggi, anche diciamo sperimentando anche terreni diciamo non proibizionisti sulle sostanze, consapevoli. Dopodiché questa situazione che mi ha molto colpito, cioè quello che era diciamo messo all'angolo, che era represso, che era diciamo ancora c'era il vecchio PC tutto contro fino al 93, che ogni volta occupavi un posto e ti devi preoccupare della celere, ma ti devi preoccupare soprattutto del PC, memori di battaglie ben più serie probabilmente. Però tutto questo oggi è diventato quasi senso comune, nel senso che noi abbiamo più locali che assomigliano a centri sociali che centri sociali che assomigliano a locali. Questo è il dibattito che c'è sulla cosa anche la internazionale. Luca, guarda, qua il discorso secondo me è molto semplice. Noi, almeno io penso che dovrebbe essere semplice, come compagni dovremmo portare avanti questa posizione, come quando occupammo il repartino del policlinico perché non volevano far fare gli aborti, lo autogestimmo, e là lo stemma era qui si fanno gli aborti per non abortire più, affinché le donne non abbiano più bisogno di abortire, non sentano più, non si trovino costrette ad abortire. Cioè secondo me noi siamo per la liberalizzazione di qualsiasi cazzo di sostanza, però perché? Per far rendere conto alle persone che non è con quel tipo di sostanza che tu puoi cambiare a livello sociale, puoi cambiare la tua vita, sono tutte cose finte, sono cose che poi non ti soddisfano e poi alla fine sei il primo ad esserne vittima. Quindi io su questo credo che come compagni dovremmo essere molto chiari, e invece su questo noi siamo abbastanza opachi, abbastanza... cioè non riflettiamo su queste questioni, quindi alla fine ci si capisce più un cazzo, insomma non si sa se una cosa è giusta, se è sbagliata, e quindi anche questa generazione di persone che non ha lottato per avere, alla fine non si rende manco conto bene che cazzo è giusto e che cosa non è giusto, se è bene stassene buttati, vive la notte, anda a fare la vita e non ha più il rifiuto del lavoro. Ma non era rifiuto lavoro, rifiuto sfruttamento, ma tu devi essere in grado di guadagnarti quello che cazzo te mangi, ma di produrtelo, non che tu vai a fare il parassita. Che significato c'ha essere il parassita? Che vuol dire essere un parassita? Che soddisfazione ti dà essere? Però Daniele, io non voglio contraddirti direttamente, voglio dirti semplicemente voglio dirti semplicemente che mi sembra che questo capitale di ricchezza, perché per me le persone sono capitale di ricchezza, le loro relazioni, adesso uso questi termini, qualcuno mi dirà ma no, sei un capitalista, no, sono un capitale nel senso che sono le loro relazioni sociali, le cose che sanno fare, sono il vero capitale, cioè la possibilità di esprimersi, di fare delle cose, di realizzarle, si scontra con un muro forte. Si scontra con... Ma noi il muro glielo... Guarda che in moltissimi casi il muro forte che ho di fronte l'abbiamo distrutto, l'abbiamo annientato, e poi quando si è trattato di costruire l'altro funzionamento, l'alternativa, la cosa, dicevano, quando eravamo ragazzi noi si diceva no, non si può fare perché se il comunismo non è una situazione generalizzata, tu addirittura vai a portare, a levare le castagne dal fuoco al capitale perché gli permetti di diminuire le contraddizioni. Invece qua i brigate rosse dicevano fra 6 mesi c'è la guerra, mi ricordo quando c'erano le cose là in galera, questo per tutto il periodo della galera, avevano trovato le mitragliette a San Vittore, erano usciti poi i documenti delle brigate del partito. Vabbè, insomma quella storia lì, la situazione lì. E dice no, fra 6 mesi c'è sicuramente la rivoluzione, figurati, addirittura anche l'extra legalità si è impossessata delle armi, quindi oramai sarà una cosa sicura. Abbiamo capito, dopo 6 mesi non avviene, dopo un anno non avviene, cazzo, ma cosa aspetta? Il soldo all'avvenire, alla fine ti rincoglionisce talmente che quando arriva manco te ne accorgi. Cioè, ma infatti il discorso era proprio capito? Questo. Secondo me la cosa, tu devi darti da fare. Ho capito, ma questa banda è un'alternativa di funzionamento. Ma questa banda ci manca. Non la a mio parere non la portiamo avanti fino in fondo. Ho capito, ma questa potenziale di relazioni, gestire quartieri interi, di autogestire situazioni anche di produzione alternativa, ma essere in grado di gestirle senza i rapporti di sfruttamento, con i rapporti di diciamo di sopravvivenza e di felicità, mettila di contentezza. Invece i rapporti sono sempre, anche a livello politico, sono sempre deteriorati, per cui praticamente alla fine questo piacere, questa volontà, questo sentirsi trasportati verso un modo di funzionamento alternativo non c'è, quindi alla fine chi resta, chi rimane in queste cazzo situazioni sono sempre gente che alla fine diventa mestierante, diventa alienato, diventa distrutto, diventa alla fine spascia i coglioni. Io me ne rendo conto, io sono uno dei peggiori spasciacoglioni che esistono questo mondo. Purtroppo dobbiamo convenire, nel senso che però è tutto uno stampo, stampo che ha prodotto molti, molti epigoni a cascata. Va bene Daniele, ti ringraziamo, tieni presente semplicemente questo, che sulla situazione del Pigneto noi ne dobbiamo parlare, adesso abbiamo preso a pretesto per fare un ragionamento più generale, perché se la situazione è questa, ci sono un sacco di abitanti, di persone che propongono soluzioni alternative, quindi se voi volete se la situazione è questa, quella che descrivevi tu, qui qualcuno si deve assumere le proprie responsabilità, lo so, di fatto, perché non è possibile. Siamo perfettamente d'accordo. Non è possibile. Noi andremo a delle manifestazioni generalizzate nei prossimi giorni, perché appunto non se ne può più. Sì, ma non è possibile neanche che i poteri forti di questa città facciano un uso così spudorato. Dobbiamo smascherare, difatti noi abbiamo proprio detto dobbiamo smascherarli, non è possibile che continuino in questo modo. ti ringraziamo tanto, ti lasciamo al tuo lavoro. Grazie. So che stai a combattere con uno strumento molto complesso, un trattore, quindi voglio molto dire pesante anche. Buon trattore. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Vabbè, insomma.